con Ilenia Caleo, che è una delle donne che introdurrà la Lectio Magistralis di François Vergès al Vigil di Roma il 7 settembre 2019 all'interno di Shore Theatre. Ilenia, ben trovata. Ciao a tutte. Raccontaci. Sì, siamo molto contente di poter ospitare Françoise Vergès, che è una pensatrice, una politologa, una femminista e una militante, attivista antirazzista. E all'interno appunto della giornata di oggi, questa conferenza aperta a tutte e tutti, organizzata, che nasce appunto da una complicità tra il Master di Studi e Politiche di Genere di Roma 3, in cui io e Isabella Pinto coordiniamo il modulo Arti, e Shore Theatre, il Festival di Arti Performative, uno dei punti di riferimento a Roma, insomma, per la sperimentazione e anche per la possibilità di vedere lavori della scena internazionale. Appunto, un master che lavora dentro l'accademia, dentro l'università, sulla formazione, ma è anche per noi, diciamo, anche un master molto anomalo, perché è gestito molto, in maniera molto collettiva, no? Una sorta di codirezione, perché per noi è anche un punto dove fare pensiero sulle pratiche femministe, quindi ha un esplicito posizionamento femminista ed è articolato in tanti moduli. E quindi ogni modulo, diciamo, ha una lezione aperta, e questa volta oggi, in questa collaborazione con il festival, ci sarà Françoise Vergès, ed è un'occasione perché forse è la prima volta che arriva in Italia a parlare. Consiglio di venire perché anche è molto interessante il suo pensiero ed è bello leggerlo. Noi abbiamo tradotto, fatto tradurre un piccolo estratto da questo suo ultimo testo appena uscito per La Fabrique, come dicevi, Un féminisme décolonial. Ma è molto bello anche sentirla dal vivo, è molto potente in presenza, quindi davvero una persona che sarà bello incontrare oggi e ascoltarla. È interessante il suo punto di vista. Lei è originaria della Réunion, poi ha vissuto e lavorato, insomma, in Francia, tra la Francia e gli Stati Uniti, e penso che quello che ci dirà oggi ci possa essere molto utile rispetto anche alla fase politica che stiamo attraversando, no? Abbiamo bisogno di strumenti concettuali, anche di nuovi spazi di immaginazione, per rapportarci alle pratiche rispetto a questa crescente ondata di razzismo, no? Che è stato particolarmente attivo negli ultimi anni in Italia, e credo, non so, se condividiamo questo punto di vista, ma con sgomento tutte e tutti abbiamo sentito anche una spirale crescente, ecco, un'accelerazione costante. Allora, come può il femminismo darci strumenti rispetto alla lotta antirazzista, e al tempo stesso, come una prospettiva, è interessante qua, no? Françoise parla di femminismo decoloniale, non postcoloniale, perché se i fenomeni di colonizzazione, quelli storici che abbiamo studiato, sono esauriti, diciamo, nella loro fase magari più esplicitamente militare, ma non sempre, non ovunque, invece l'idea di colonialismo, qualcosa che invece è molto più pervasiva, continua, attraversa anche i dispositivi culturali, le lingue, le culture, le organizzazioni, il pensiero, le rappresentazioni, quindi ecco, qualcosa che è ancora da fare, no? Ci dà un'idea molto più attiva, qualcosa che decolonizza, non siamo già purtroppo ancora nel post coloniale, ma no, con uno sguardo posizionato di una donna nera che arriva da una colonia francese, no? I famosi dipartimenti d'oltremare. Ecco, questo ci dà anche subito un'indicazione, ed è molto interessante anche rispetto al femminismo. Lei parla dalla Francia, quindi forse un po' diverso dalla situazione italiana, ma lei attacca anche molto frontalmente questo femminismo bianco borghese, che sotto il paravento di rivendicare i diritti delle donne, in realtà riafferma un modello di un suprematismo occidentale, no? Siamo superiori perché civili, perché civilizzati, questo lo si legge anche in virtù, no, dei diritti che le donne hanno. E lei rompe in maniera molto radicale questo paradigma, interrompe anche l'idea che ci sia un soggetto donna unitario, ma una pluralità di femminismi, e no, la necessità di intersecare continuamente l'idea di genere, cioè il genere da solo non basta, così come la razza da sola non ci dice tutto, e la interseca anche in una prospettiva marxista musicista, insomma, con l'idea di classe. Quindi è molto interessante. Lei ha lavorato tanto, ha analizzato soprattutto il lavoro di cura delle lavoratrici. E in questo testo appunto appena uscito in Francia e di cui abbiamo pubblicato su Not, un piccolo estratto, e poi uscirà l'estratto lungo, diciamo settimana prossima, quindi c'è la possibilità di leggerne un pezzo anche in italiano. Parte proprio dal chi pulisce le nostre case, chi pulisce le nostre palestre, le nostre istituzioni culturali, i nostri musei, questo lavoro, questi corpi che lavorano, che puliscono proprio, fanno il lavoro di pulizia e di cura degli ambienti, degli spazi, delle città, sono prevalentemente moltissimo negli Stati Uniti, in Francia, ma insomma qualcosa che possiamo osservare anche da noi rispetto al lavoro di cura, delle badanti, eccetera, sono persone, appunto, sono donne razzializzate, quindi che nere, afrodiscendenti, africane, islamiche, sudamericane, ispaniche. E compara, è molto bello questo paragone che lei fa, tra questo corpo esausto di queste donne che lavorano, che sono invisibili perché letteralmente non le vediamo quando arriviamo in ufficio al mattino, quando entriamo in un museo, no, è già tutto fatto, quindi è proprio un lavoro, è un corpo invisibile. Questo corpo esausto rispetto invece al corpo in forma, al corpo fitness del maschio bianco occidentale che questi luoghi abitano. Quindi la cura di sé che gli occidentali hanno del proprio corpo è resa possibile. No, da questo lavoro razzializzato e sessualizzato che è invisibile. Insomma, questo per darvi un piccolo accenno di quello che probabilmente oggi Françoise di cui parlerà, insomma, rispetto a questo testo davvero molto interessante dove troviamo delle parole chiave, no, che io sento molto, ma insomma io, ma il movimento non una di meno negli ultimi 3 anni ha, come dire, messo a fuoco, agitato anche l'idea che forse in Italia rimane un po' astratta, di intersezionalità, no? L'idea che appunto dobbiamo mettere insieme diversi assi, no? Su cui lo sfruttamento, il dominio agisce per comprenderne la complessità e anche dall'altra parte, e questo è l'altro aspetto molto interessante del pensiero di Vergès, costruire alleanze. Lei fa un attacco anche molto forte a questo femminismo bianco neoliberale, appunto per. No, non siamo tutte femministe allo stesso modo, ma al tempo stesso, invece su questi punti di pratiche antirazziste, di pratiche decoloniali, riuscire a organizzare dei nodi di alleanze, di nuove alleanze. Allora ricordiamo la Lectio Magistralis di François Vergès, oggi al Vigil all'interno di Shore Theatre. Un saluto e un ringraziamento a Ilenia Caleo, che è una delle donne che introdurrà. Ilenia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Ciao a tutte, ciao ciao.